in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa domenicale. I titoli sulle prime pagine dei giornali che troviamo questa mattina in edicola, i titoli più importanti sono quelli dedicati, con poche eccezioni, alle primarie del Partito Democratico. Oggi, come sapete, come avete sentito anche nel giornale radio prima condotto da Valeria De Rosa, il Partito Democratico sceglierà il suo nuovo segretario. Primaria PD, la sfida è sull'affluenza, titolo La Repubblica, Renzi, Cuperlo o Civati, oggi il vincitore. E poi la sortita di Grillo che campeggia, occhieggia qua e là nelle prime pagine, via i deputati abusivi, Grillo shock, scrive la Repubblica. Qui il riferimento alla condizione di abusivismo dei deputati è alla decisione della Consulta riguardo la legge elettorale, decisione intervenuta nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione di Grillo, decisione della Consulta, cassando la legge elettorale, quindi metterebbe in una condizione di abusivismo una buona parte dei deputati e quindi lui invita a non far entrare. Il Fatto Quotidiano titola pure su Renzi, apre pure su Renzi. Renzi si sente già padrone, PD ma quanti voteranno? Quindi identica lettura rispetto a quella che troviamo su Repubblica sull'affluenza. E così ancora sull'affluenza delle primarie PD è il titolo principale del Corriere della Sera. PD, la vera prova è l'affluenza. Oggi le primarie sfida a 13, il quotidiano di Via Solferino. Renzi prepara un'agenda d'attacco. Napolitano, tra i timori per l'asse Forza Italia Grillo e l'auspicio di un patto tra il Premier e il sindaco. La prima della scala che si è tenuta ieri con la Traviata occupa quasi tutte le foto che vengono riportate in prima pagina dai quotidiani. Allora, vediamo però qualche titolo che invece non riguarda direttamente le primarie del Partito Democratico, ma altri eventi che sono avvenuti ieri o che sono previsti da questa sera. Il riferimento è ai blocchi stradali minacciati dal movimento cosiddetto dei forconi, blocchi che sono particolarmente temibili perché appunto intervengono sulle strade, prima delle autostrade. 100 blocchi antiletta è il titolo principale di Libero, la prova della rivolta. Artigiani, commercianti, agricoltori, camionisti da questa notte scendono in strada in tutta Italia contro le tasse e il governo. Allarme nella polizia, rischio caos. E appunto sui blocchi, leggiamo da Libero, 100 blocchi contro Letta, piccoli imprenditori in strada, due punti, rivoluzione, da stanotte presidi in tutta Italia fino a venerdì, stop a questa dittatura fiscale, questa è uno degli slogan che appunto sta mobilitando la protesta, la polizia si mobilita, la polizia che ha diffuso un allarme, soprattutto spiega Giuliano Zulin, nell'articolo interno protesteranno i camionisti, si fermano i tir di Associazione Italiana Trasportatori, Movimento Autonomo Trasportatori, Trasporto Unito. Esiste una sola possibilità, ha dichiarato un leader del gruppo, per evitare che da domani il paese sia travolto da uno shock sociale senza precedenti, il governo ci convochi, definisca subito gli strumenti attuativi delle norme che abbiamo proposto per salvaguardare le imprese italiane di autotrasporto. In caso contrario prenderemo atto che un governo dalla dubbia legittimità, che usa la forza anziché la ragione, non lascia altra alternativa possibile se non quella di essere affrontato in piazza. La lista di chi manifesterà poi si chiude con artigiani e commercianti. Questo, come dire, l'avviso su Libero per questi blocchi che speriamo non riproducano quanto era accaduto in Sicilia con la protesta dei forconi appunto di qualche anno fa. Allora l'isola subì effettivamente una grossa battuta d'arresto, ci furono grossi problemi anche per gli approvvigionamenti essenziali come quelli di carburante e degli alimentari. Sulla Traviata, restando sempre su Libero, un commento abbastanza caustico: una Traviata sobria, buona per l'IKEA. Fischi al regista Dmitry Chernyakov si mostrano che esiste un dio della lirica. I fischi a Daniele Gatti, scrive Filippo Facci, dimostrano che è un dio un po' cinico. Fischiato il regista, vai a casa. Appunto, questi fischi vengono enfatizzati dalla prima pagina di Libero. E sulla prima pagina invece del Sole 24 Ore. Tutt'altro argomento, l'avete ascoltato nell'annuncio e anche nel servizio di Beda Romano nel corso del giornale radio che ha preceduto questa trasmissione, l'incontro di Weidmann, del presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, con il Sole 24 Ore, con l'intervista che è stata poi raccolta da Alessandro Merli. Anche la Germania deve fare le riforme, ha detto Weidmann al Sole 24 Ore, e poi ha anche detto l'Italia ha la capacità di uscire da sola dalla crisi. Ora, perché è così importante questo, sono così importanti queste dichiarazioni di Weidmann? Perché in fondo è sull'asse italo-tedesca che si gioca buona parte del futuro della politica dell'Unione Europea, quindi diciamo tra la Germania, che può essere considerata a buon diritto alfiere del rigore, e l'Italia che spinge, che si è fatta portavoce negli ultimi tempi anche per pressioni non solo del Presidente del Consiglio ma anche dello stesso Presidente della Repubblica, per uscire da quella che potrebbe diventare la spirale dell'austerità a tutti i costi, che poi in realtà appunto si traduce per lo più in nuove imposte e non aiuta la crescita. Quindi questo incontro, diciamo così, tra Italia e Germania, tra la redazione Sole 24 Ore e Weidmann, il Presidente della Bundesbank, è particolarmente importante per capire che cosa, come ci vedono, come la vedono, come vedono l'evoluzione della politica europea proprio alla Bundesbank, alla banca centrale tedesca. Alessandro Merli così riferisce nella pagina interna. Molti economisti, viene chiesto a Weidmann, attribuiscono lo stato attuale dell'economia dell'eurozona, cioè i paesi con l'euro, almeno in parte a troppa austerità. C'è un rischio che la fatica da austerità nei paesi periferici vada a scontrarsi anche in termini sociali con la fatica da salvataggi dei paesi del cuore dell'unione monetaria, rendendo l'attuale percorso dell'eurozona politicamente insostenibile. La risposta di Weidmann è fiduciosa. Dice: sia l'eurosistema sia gli analisti prevedono una ripresa graduale dell'area euro, non una recessione prolungata. E per quanto riguarda la sostenibilità politica, dubito che un aggiustamento più lento sia più digeribile di uno più corto ma più netto. Un aggiustamento più breve, spiega il presidente della Banca Centrale Tedesca, ti consente di vedere la luce alla fine del tunnel più rapidamente. Alla fine la strada da prendere deve essere decisa a livello politico dai paesi stessi, dai loro partner, perché nei paesi che hanno un programma di aiuti, più si allunga l'aggiustamento, più fondi dai meccanismi di salvataggio saranno necessari. Insomma, per il presidente della Banca Centrale Tedesca è preferibile appunto intervenire rapidamente, intervenire decisamente, anche se appunto questa austerità, ha detto anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta nelle settimane scorse, di troppo rigore si può anche morire, nel senso che appunto c'è un eccesso di richieste ai cittadini, un eccesso di richieste sulle imprese, e questo non aiuta a ripartire. Ma non è questa la visione però di Weidmann, che non sembra lasciare molti spazi a un allentamento dei vincoli, quanto piuttosto essere convinto che la ripresa sia oramai partita, anche se i segnali non sembrano proprio moltissimi, e quindi sia meglio tenere il punto sulla austerità. Trovate l'intervista sia sul Sole 24 Ore di oggi, a pagina 3, sia nel pomeriggio di oggi sarà disponibile la versione integrale di tutto questo incontro, di tutte le dichiarazioni di Hans Weidmann, sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Sarà disponibile anche la versione inglese, che è la lingua originale che è stata adottata per questo incontro. Restiamo ancora per qualche istante sul Sole 24 Ore prima di fermare fermarci per le informazioni sul meteo. Da IMU e TARES 16 miliardi, cioè, ricorda il quotidiano in prima pagina, scadenza il 16 dicembre, quindi 8 giorni oggi, per il saldo delle imposte su casa e rifiuti. Di questi 16 miliardi la metà sono a carico delle imprese. Per quanto riguarda ancora invece la politica monetaria e la politica europea, il richiamo delle dichiarazioni di Barroso: bene il deficit italiano, ma il debito è ancora troppo alto, il 3% va applicato senza dogmi. All'interno il servizio affidato a Davide Colombo. Bentornati ancora, buona domenica da Mauro Meazza. Uno sguardo ai quotidiani quest'oggi in edicola. Come vi dicevo già nella prima parte di questa trasmissione, le primarie del Partito Democratico e in generale questioni politiche sono per molti quotidiani il titolo più importante. La Stampa, quotidiano di Torino, dà però spazio alla tenaglia sul governo costituita da Grillo e Forza Italia, una lettura appunto della evoluzione politica che è presente anche su altri quotidiani. La Stampa decide di dare a questa lettura appunto questa saldatura tra il movimento neofondato da Silvio Berlusconi e quello fondato da Beppe Grillo, dare a questa lettura, dicevo, il titolo principale. Cresce la tensione, il centrosinistra dice basta squadrismo politico. E poi le dichiarazioni di Grillo: ci sono 150 deputati abusivi, vanno fermati. Alfano, ieri Alfano ha tenuto il primo momento pubblico del nuovo centrodestra, Alfano che offre al Partito Democratico un patto per arrivare al 2015. Il voto per le primarie del Partito Democratico è a centropagina sul quotidiano torinese. Renzi verso il trionfo e Epifani che sollecita ora contrappesi. Ma nella parte buona parte della prima pagina della Stampa è occupata da una segnalazione sugli ospedali che dovranno chiudere. Ecco la lista dei 175 ospedali che dovranno chiudere. Di che si tratta? Manca solo il sì di regioni e governo per far scattare la chiusura di 175 ospedali con meno di 120 posti letto, considerati inefficienti e fonte di sprechi. I medici chiedono che sia mantenuto un presidio nelle zone disagiate. Il lavoro, la mappa appunto, è riportata nelle pagine 2 e 3 del quotidiano La Stampa. C'è l'elenco completo degli ospedali, appunto considerati inefficienti fonte di sprechi. Entro Natale è atteso un accordo tra il Ministero e le regioni per vedere se dare corso o meno a questa decisione e quindi chiudere gli ospedali con meno di composti letto considerati insufficienti per questioni appunto di antieconomia degli ospedali stessi. Questo diciamo è l'argomento principale per quanto riguarda la scelta della Stampa di Torino. Un argomento economico invece è l'apertura, è il titolo più importante dell'Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che sceglie l'accordo sul commercio mondiale come suo titolo più di rilievo. Commercio più equo, intesa alla WTO, World Trade Organization, per agevolare gli scambi, battere la fame, un guadagno di 1.000 miliardi di dollari. La Santa Sede chiede spazio per regole etiche, ci sono aperture da Stati Uniti e Cina. Letta ha commentato nuove opportunità per le nostre piccole e medie imprese. E un altro dettaglio su Avvenire, che differenzia Avvenire dagli altri quotidiani oggi in edicola, c'è la foto notizia della Traviata, la grande foto che appunto segnala la prima della Scala, del Teatro La Scala di Milano, che è stata appunto per l'opera di Giuseppe Verdi, ma il riferimento al titolo è alla Traviata dei detenuti. Napolitano avrete giustizia, è la proiezione appunto che si è tenuta nel carcere milanese di San Vittore alla presenza del ministro della giustizia Cancellieri, quindi a venire parla di Traviata dei detenuti. Ma torniamo all'accordo che c'è stato ieri, accordo che naturalmente è presente anche su altri giornali, sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, su molti altri giornali nelle pagine interne, ma con appunto questo risalto è soltanto Avvenire a segnalare l'importanza dell'accordo sul commercio mondiale. Commercio mondiale, più aiuti alle esportazioni, così legge Andrea D'Agostino l'intesa tra i 159 stati che è stata siglata ieri. 1.000 miliardi di dollari di possibili guadagni grazie all'accordo di Bali, 325 miliardi di dollari che i paesi in via di sviluppo potrebbero risparmiare e una riduzione di costi del 10% legati al commercio delle economie sviluppate. Anche il ministro De Castro parla di passo avanti, in futuro più cibo per i popoli più poveri, e il viceministro Calenda che sempre su Avvenire dice meno ideologia e più concretezza, la globalizzazione aiuta. Insoddisfatte invece le organizzazioni non governative che parlano di un compromesso. La sollievo della UE perché in qualche modo questa trattativa che proseguiva da una ventina d'anni è stata sbloccata. Però già l'ambasciatore americano, nonostante appunto la sigla dell'accordo, ha avvertito che il multilateralismo non potrà essere una formula che funziona per tutto. L'intesa appunto sul commercio internazionale, a cui sono affidate molte speranze anche di migliore distribuzione delle risorse del pianeta, e questo è poi il senso che dà il motivo ad Avvenire per segnalare con grande evidenza questo accordo, è naturalmente poi commentato più in dettaglio con l'aiuto di schede e rimandi. Vi dicevo, si parla molto delle primarie del Partito Democratico, primarie che si svolgono quest'oggi, se ne parla molto un po' su tutti i quotidiani, ma intanto ieri è stato anche deciso il vertice, ci sono state queste primarie tra Bossi e Salvini, primarie del Carroccio. Nella sfida con Umberto Bossi, Matteo Salvini ottiene l'82% dei consensi. Questo è il titolo della Padania, che dice ritorno al futuro. Grazie a tutti i nostri militanti, sono le prime dichiarazioni di Salvini, priorità alla difesa del lavoro e alla battaglia contro l'euro. Maroni, bravo Matteo, inizia con te il futuro della nostra grande Lega. Poi nelle pagine interne della Padania, naturalmente è l'organo ufficiale della Lega Nord, quindi dà molto spazio a questa scelta che si è compiuta appunto tra Bossi e Salvini e che ha visto trionfare il secondo con una maggioranza quasi plebiscitaria dell'82%. Nelle pagine interne ci sono anche le varie cronache in qualche modo dalle sedi dove si è votato. Votazione che, se per le primarie del Partito Democratico c'è la preoccupazione dell'affluenza, molti giornali oggi parlano appunto del rischio affluenza, anche per la Lega, visti anche i vincoli che erano stati posti ai possibili votanti, non ha visto un'affluenza molto alta. Infatti hanno votato, ricorda la stessa Padania, 10.206 militanti, il 60% degli aventi diritto al voto. In ogni caso, quanti abbiano votato diventa di minore rilievo rispetto al risultato. Il risultato è che appunto Matteo Salvini sarà il segretario. La ratifica avverrà però al congresso di Torino, perché questo è una specie soltanto di sondaggio, per dir così, e poi ci sarà il momento ufficiale. All'interno poi anche quello che è un po' il programma politico del segretario, che viene sintetizzato anche da altri giornali appunto con questa opposizione all'euro e contrapposizione all'Europa, un'Europa intesa soprattutto come portatrice di austerità. Questo per la scelta di Matteo Salvini come nuovo segretario della Lega. Vediamo Vediamo invece qualcosa ancora su Renzi, un terno all'otto. È il gioco di parole del manifesto. Tormentate fino all'ultimo, arrivano le primarie del PD. Nei gazebo la scelta del nuovo segretario tra Renzi, Cuperlo e Civati. Il sindaco di Firenze è il super favorito. Ma sulla forza del futuro leader peserà l'affluenza ai seggi. Il risultato potrebbe decidere le sorti delle larghe intese, quindi del governo, e il ruolo del capo dello Stato, pesantemente attaccato dalla strana coppia Grillo-Berlusconi, appunto l'evento politico di cui vi riferivo. A cui la stampa dà grande risalto, questa saldatura di propositi antigovernativi, diciamo così, di opposizione tra Forza Italia, tra la neocostituita Forza Italia da Silvio Berlusconi e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Questo sul manifesto, il Messaggero pure. Dà il primo titolo alle primarie del Partito Democratico, Renzi alla prova primarie, oggi il PD elegge il nuovo segretario, il sindaco parte favorito su Cuperlo e Civati. Rebus affluenza, obiettivo 2 milioni di votanti, Letta tende la mano, anche io sono bipolarista. E poi la vigilia di Matteo Renzi, che è annunciato, appunto, è un po' il segretario annunciato di questo Partito Democratico, tutti si aspettano che prevalga sugli altri due sfidanti. Matteo prepara la rivoluzione, cambierò tutto, dice già dalla prima pagina del Messaggero. E poi Alfano, convention del nuovo centrodestra che si è svolta ieri, il nuovo centrodestra, appunto, la parte che sostiene, che è rimasta nel governo, guidata appunto dal vice premier Angelino Alfano. Alla convention del nuovo centrodestra Alfano dice: se il centrosinistra stipulerà con noi un contratto di governo, nel 2014 faremo le riforme, nel 2015 vinceremo le elezioni. Abbandonare Forza Italia è stata la frase di Alfano ieri, è stato doloroso ma giusto. E poi sempre dalla prima pagina del Messaggero una notizia che riguarda Preiti, vi ricorderete quel signore che si rese protagonista appunto di una sparatoria all'ingresso della Camera, all'ingresso di Palazzo della Camera, Luigi Preiti, l'attentatore di Palazzo Chigi, l'uomo che con una beretta 7.65 ha sparato 6 colpi contro 3 carabinieri il giorno in cui giurava il governo Letta, non è un pazzo. Così ha detto la perizia shock, scrive infatti il Messaggero, sparò ai carabinieri ma non è un pazzo. E poi le sue seratine, la ricostruzione dai documenti, a base di alcol e cocaina. Bentornati alla nostra rassegna stampa dei giornali in edicola questa domenica, e ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Visto che abbiamo appena ascoltato le informazioni sul traffico, torniamo sulla vicenda della protesta cosiddetta dei forconi e dei blocchi che da questa sera potrebbero esserci un po' in tutta Italia e quindi limitare pesantemente la mobilità, la nostra mobilità. La stampa dedica alla protesta due pagine, nelle pagine interne due pagine affiancate. La protesta, l'Italia con il fiato sospeso, il Viminale, il ministro dell'interno dice, ha diramato anche delle istruzioni contro i blocchi, pronti a usare anche gli idranti. Oggi le manifestazioni Torino, Triveneto, Latina e la Sicilia sono i punti critici. Il coordinatore nazionale della protesta Danilo Calvani dice appunto dalle pagine della la stampa: consigliamo a tutti i cittadini italiani di fare provviste in vista dello sblocco che inizierà il 9 dicembre. Effettivamente un proposito, come dire, non di quelli poco bellicosi, quindi invita addirittura a fare provviste perché potrebbero poi verificarsi dei blocchi molto pesanti. Ricorderete nel gennaio del 2012 in Sicilia i distributori rimasero senza carburante, negozi di alimentari erano in difficoltà con le scorte, con la disponibilità appunto delle merci, e la protesta fu molto molto pesante. La stampa aiuta anche con una scheda a capire chi sono i promotori della protesta. Il 16 marzo scorso ricostruisce la scheda. A Pontinia Latina si sono dati appuntamento agricoltori, coltivatori, autotrasportatori, cittadini che in passato avevano partecipato a iniziative di lotta di settore per organizzare una protesta popolare contro governo e classe politica. Il 23 agosto a Cerea, provincia di Verona, i comitati del nord e quelli del sud Italia, come i forconi siciliani, aderiscono alla proposta che era scaturita nella riunione di Pontinia, e a Pontinia ancora il 6 ottobre nasce il coordinamento nazionale che poi proclama la manifestazione del 9 dicembre. Fuori dal coordinamento però, secondo i rapporti del Ministero dell'Interno, ci sarebbero anche degli estremisti di destra che proveranno a strumentalizzare la protesta. Che cosa chiedono questi blocchi? Che cosa hanno di mira? Nel manifesto che ha indetto la protesta, il Comitato del Coordinamento Nazionale dice: siamo il popolo italiano che senza distinzione di sorte riconosce che nessun partito politico, nessuna sigla sindacale o altra organizzazione ha effettivamente avuto a cuore gli interessi della nostra nazione e dei suoi cittadini. Siamo per la riaffermazione dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale, ormai accantonati a beneficio di meri interessi di parte e di singole caste sociali. Insomma, una protesta che con questo tipo di propositi va bene un po' per tutto, e quindi no alle tasse, no al caro benzina, no alle limitazioni in qualche modo alle tasse locali, alle tasse statali e così via. E soprattutto c'è un no alle tasse sull'autotrasporto, anzi ulteriori aiuti all'autotrasporto. Gli autotrasportatori sono tra gli animatori della protesta, e questo appunto anche fa capire la preoccupazione del Viminale, cioè del Ministero dell'Interno. Sul Corriere della Sera anche la protesta dei forconi occupa molto spazio, anche se in una pagina abbastanza in là, anche gli idranti contro i forconi, tensione in Piemonte, Sicilia e Nord-Est, ci sono state anche minacce di morte per chi non aderisse alla protesta. E poi un viaggio attraverso questi animatori, i vari animatori della protesta, il falegname con il mito di Putin e gli altri capi della rivolta, quindi una mobilitazione che non ha un solo riferimento, ma più riferimenti. Questo la rende naturalmente anche più difficile da controllare in qualche modo, forse per i suoi stessi organizzatori. Staremo a vedere, speriamo che, come dire, il buon senso prevalga, anche visti i richiami abbastanza generici alla protesta. Ripeto, una protesta che poi è un po' antitasse, antitutto, anticrisi, però purtroppo la crisi non si riesce a limitare con semplicemente qualche decisione governativa. Buongiorno Democratico è il titolo dell'Unità, l'Unità naturalmente in qualche modo obbligata, così come la Padania in qualche modo obbligata a segnalare la vittoria di Salvini su Bossi alla corsa di segretario, e così l'Unità è obbligata all'apertura al titolo principale sulle primarie del Partito Democratico. Buongiorno Democratico, oggi le primarie, si vota dalle 8 alle 20, 9.000 gazebo in tutta Italia. Gli ultimi appelli, Renzi che dice: con me cambia tutto, Cuperlo, serve una sinistra forte, Civati che ha detto: presto alle urne. Rivolta contro Grillo, no alle liste di proscrizione. Questo è il secondo titolo della prima pagina dell'Unità, perché appunto ieri nei giorni scorsi in realtà c'è stata una sgradevolissima presa di mira di una giornalista proprio dell'Unità, Maria Novella Oppo, che è stata verbalmente aggredita prima dal blog di Grillo e poi anche dai militanti, con toni assolutamente inqualificabili, quindi semplicemente degli insulti, perché si era permessa di criticare il Movimento 5 Stelle. E questo appunto, lo stesso deputato del Movimento 5 Stelle dice che è esecrabile mettere la foto di una cronista sul blog come una ricercata, e poi rassicura noi giornalisti, dice: chiudere i giornali non è mai stato nel programma, e ci mancherebbe altro, mi permetto di aggiungere io, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Su Grillo poi c'è una notizia particolare che prendo da Libero. Grillo affitta case extra lusso, il terzo lavoro del comico tribù 1, è un articolo di Giacomo Amadori richiamato in prima pagina. Il terzo lavoro di Grillo, affitta casa extra lusso. Il comico tribuno chiede 4.200 euro al mese per l'appartamento di Lugano, per la Villa Toscana ne prende 14.000 a settimana. E una scheda spiega appunto questo lungo articolo che occupa un'intera pagina di Libero in questa giornata, spiega appunto una scheda che il Grillo ha dovuto in qualche modo ricorrere all'affitto dei suoi immobili, anche perché, come ha ricordato lui stesso nel corso dell'ultimo Vaffadei, il mio 7,30 è a zero da 4 anni, sono l'unico che fa politica e ci ha rimesso dei soldi. Vabbè, però ha potuto però ricorrere a delle forme altre di finanziamento. Bene, ultimo titolo in 10 secondi. Balotelli salva Milan dalla Gazzetta Sportiva. Super Mario tiene a galla i suoi, doppietta e una clamorosa traversa, ma la squadra di Allegri delude. Vedremo cosa faranno le altre questo pomeriggio. Io ringrazio Peter Bescapè questa mattina in regia. Ci sentiamo domani con Alessandro Milan, anzi no, con Anna Migliorati.